Let me take a pills, a magic pills, for my pain brief. Hey, doctor. Doctor. Chi è? Quello nato dal fango come De André. Sono un fiore stupendo, un diamante d'inferno, d'ingegno. D'estate do il meglio. Rimango qui con un cigno balbetto. L'unica cosa che so fare è dare rispetto. Pure alle voci. Rimango qui feroci, calci sulle mie cosce. Rimango qui come due brioche che si amano. Rimango qui nel cielo come una grande luna. Sono un porta fortuna per la crew. La gente mi conosce come Belzebub. Boom, boom, sette te. Come da ragazzini, come da bambini. Io mi tiravo le seghe su. Colpo grosso. Rimango qui sull'osso. C'è scritto il mio nome in fango. Senza inganno, scrivo un'altra lirica estremamente pudica. Oh, le prego signore, sono una suora, non mi chiami per favore. Questo quando dicevo due ore prima. Poi pure lei è venuta su sta base. L'ho chiavata in testa e ora prega il vescovo come fosse la messa. Rimango qui, confessa i tuoi peccati, tesoro. Sono uno serio, le mani dall'oro. Scolpisco cini per passione, come uno in carcere, in un film di mia conoscenza. Rimango qui, c'ho tutta la scienza in testa. Rimango qui, faccio festa. La matematica non mi è mai piaciuta, ma con l'arte tiro tipo Battistuta. Sono qua con una mezza posseduta, il demonio la incarna. Rimango qui tra la terra e il cielo. Apro le mani e poi prego il terzo occhio nel cielo. Sarà vero un mistero, non lo so, ma squirting in bocca dal cielo di una pussy gigante, pussy riot. Rimango qui, traiettoria radio di uno stereo che spara nella mia testa delle onde gamma. La gente mi dice: ma sei serio? Ci faccio sul serio. L'unica cosa che posso fare da qua è mandarti un mio pizzino. Per questo qua che vuole ascoltare la mia roba live, gli dico che non ci ho voglia, sai. Potrei farti uno show che ti meraviglia, dai. Non fai così, ascolta la mia musica come se fosse un film. Fatti il film. Rimango qui, Disney mi fa una sega. Linguaggio subliminale, ci metto un cazzo a fare di te un pazzo. Ti tiro due rime a bersaglio, manco fossi Roberto Baggio. Su sta base sono un assaggio di quello che so fare. Rimango qui, il mio rap, arsenale magistrale. Uso le mie rime, abuso, continue citazioni di guerra. Sarà per questo che voglio una che picchi duro, che mi protegga. Sono esile, malnutrito e un po' ferito.